9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 6 ottobre da Oscar Giannino. Come vi ho avvisato nel lancio, queste due giorni sarà di puntate un po' itineranti, siamo fuori dallo studio, quindi spero che la qualità della nostra voce vi arrivi comunque, affidandoci alle nostre infrastrutture di telecomunicazione nazionale. E di questo infatti parliamo, siamo per questi due giorni a Capri, perché ogni inizio ottobre tutta la business community del mondo delle telcos, quindi delle telecomunicazioni, dell'ICT, si riunisce per fare un punto tra operatori, manager del settore. Stiamo parlando di uno dei settori, diciamo, da cui dovrebbe venire, viene negli ultimi decenni in tutto il mondo avanzato e anche nei paesi in via di sviluppo, un drive di crescita fenomenale, perché si tratta di cambiare modelli di business, capire come integrare tutti i supporti, le strutture su cui passano le comunicazioni, la rete fissa, la rete mobile, le NGN, la banda larga e ultralarga. Stiamo parlando di una rivoluzione che non ha solo a che fare con i social network, ma che comincia naturalmente anche con i social network, con la modifica dei vostri profili di consumo personali, individuali e familiari, ma che è una rivoluzione perché significa l'accesso a produttività, ottimizzazione di come si organizzano i servizi, i clienti, i fornitori, le modalità di immaginare la propria capacità di proiettare, se avete una piccola impresa, ben al di là di quello che i costi fissi vi consentono, un modello di business integrato attraverso le tecnologie, attraverso la capacità di banda. E naturalmente tutto questo è nel quadro di una rivoluzione non solo mondiale ma europea, ci sono degli obiettivi, l'agenda digitale, e di tutto questo parleremo, perché da anni stiamo, per così dire, assistendo a un ritardo, quello peculiare di come è organizzato il nostro modello di mercato, non per volontà degli operatori. Abbiamo questioni regolatorie da affrontare, abbiamo naturalmente un quadro che è quello della penuria assoluta, per quello che mi riguarda non è un grosso problema, ma lo vedremo, della finanza pubblica, di ciò che può la finanza pubblica riservare a tutto questo. Sapete che c'è un confronto aperto da anni tra operatori su come fare o non fare una società per integrare e promuovere la banda ultralarga, perché si tratta di vedere come mettere insieme la rete in rame di Telecom, quelle in fibra, le modalità mobili. Su questo oggi è atteso questo decreto legge sviluppo del governo. Leggete sui giornali le tensioni a cui nel governo questo decreto sviluppo sta preludendo tra Presidente del Consiglio e Ministro dell'Economia. Pensate che le imprese che hanno presentato il loro manifesto la settimana scorsa chiedendo 5 punti per la crescita sono state trattate a pesci in faccia, dicendo che non devono permettersi di dire che il governo non va bene. Invece pare che il Ministro dell'Economia poi nei chiarimenti notturni dice al Premier: guarda che i downgrade ci arrivano per colpa tua, levati di torno. Il che significa che siamo su un livello di confronto interno un pochino più acceso, diciamo così, di quello che le imprese riservano con le loro proposte costruttive. Infine, prima di presentarvi i nostri ospiti, quadro della giornata. Anche oggi le borse asiatiche ci dicono che i mercati sono su un ristorno positivo, perché le notizie che vengono dalla Germania ieri, cioè la decisione tedesca non tanto di dare gli 8 miliardi che i greci continuano ad aspettare, per cui spaccano tutto nelle piazze, quanto la decisione di iniziare a pensare a uno strumento tipo TARP per ricapitalizzare le banche, che sono la prima cintura che va fuori sicurezza e che ridiffonde nel mondo il rischio di un crack Lehman, questa volta generato dall'Europa dopo tanti anni in cui diciamo colpa degli americani. Questo ai mercati gli dà una buona tensione positiva. Dall'altra parte, per quello che riguarda l'Italia, stanotte nuova raffica di downgrading dopo quello sovrano della sera prima. Ad andarci di mezzo, come è conseguente, una nutrita lista di comuni, regioni e società a controllo pubblico, da Finmeccanica a Terna a Eni. E naturalmente questo dovrebbe farvi capire quanto il rischio paese incorporato in tutte le società, in tutti gli asset italiani, nella provvista di capitale delle banche, non è affatto vero che non abbia alcuna conseguenza, come forse alcuni di voi avranno creduto di capire ascoltando, per quello che mi riguarda, gli stupefacenti servizi del TG1 di ieri sera, che sembravano confezionati da una banda di carissimi colleghi, ma affetti da qualche difetto di percezione, visto che vi hanno spiegato per circa 12 minuti che i downgrading sono frutto di una banda di pazzi che ce l'hanno con i nostri autorevoli governanti. Veramente no, avrebbero dovuto dirvi innanzitutto quanto vi costa tutto questo a ciascuno di voi, ai vostri mutui, agli impieghi che chiedete, alla restrizione di credito, se avete una qualunque azione o obbligazione, a quanto meno vi renderà, a quanto vi si abbatte patrimonialmente. Pensate che dalla fine di giugno l'abbattimento delle quotate italiane è superiore al 30%, è superiore al 30%, e nel frattempo ciò che abbiamo incorporato per lo spread in tutte le aste da allora, siccome non c'è prospettiva, a meno di novità, che si abbassi, significa che nell'anno e 8 mesi che ci abbiamo di fronte dovere pagare 20 miliardi di euro di interessi in più rispetto ai 54 della manovra. Quindi sappiate che il costo che vi aspetta è questo, cioè l'inevitabilità rispetto alle nuove tasse 2012, di fronte alle quali, e ho finito, il più delle previsioni sono di una crescita del PIL col segno meno, vi aspettano anche tasse aggiuntive. Quando vi spiegano che i downgrading sono fatti di una banda di pazzi al servizio di una banda di speculatori, forse dovrebbero dirvi: ma questo non lo sappiamo, ma intanto vi diciamo quanto vi costa. E vi costa, cari Topolini, ascolto, altro che se vi costa. Allora, i nostri ospiti di oggi, che naturalmente parleranno in una modalità molto più seria e molto più posata, perché sono manager di grandi gruppi abituati a, diciamo, misurare le parole, ma ve li presento immediatamente. Abbiamo con noi intanto Michele Patri. Michele Patri chi è? Signor Vice President e Portfolio Manager di Allianz Bernstein Limited. Detto così sembra che venga dal pianeta Marte, ma invece, diciamo, a lui chiediamo, oltre a salutarlo e ringraziarlo, un quadro di riflessione su come di fronte alla crisi in questi anni le grandi telco, gli ex incumbent dei paesi leader europei hanno dovuto incassare i colpi della crisi, modificare la propria organizzazione, integrazione verticale e orizzontale, che problemi ha comportato per loro e quindi quanto fiato in corpo hanno rispetto a questo. Intanto lo saluto, lo ringrazio. Buongiorno Patri. Domanda difficilissima. Aspetti, intanto saluti, buongiorno. Buongiorno. E perché poi presentiamo anche gli altri due ospiti e poi cominciamo a metterla sotto come all'esame. Allora, poi abbiamo con noi Alberto Calcagno, che è general manager di Fastweb. Invece Fastweb, lo ricordo, è nei player del mercato italiano quello che ha la rete in fibra ottica più avanzata ed estesa in Europa, e negli ultimi anni c'è stato un problema rispetto anche all'architettura di regolazione, quindi ha un po' dovuto alzare il piede rispetto all'avanzamento della propria rete, ma è uno dei grandi asset del nostro paese. Quindi buongiorno e grazie a Calcagno. Buongiorno. E poi abbiamo l'amministratore delegato di BT in Italia e il presidente anche di BT in Francia, quindi stiamo parlando di British Telecom, ex incumbent in Gran Bretagna e un protagonista anche qui nel mercato europeo, Corrado Sciolla. Buongiorno Sciolla. Buongiorno. Allora, cominciamo da Patri. Quante botte hanno preso le telco, guardando anche un po' all'Italia, ma insomma nel quadro europeo, e quanto questo le limita rispetto alla necessità di investire una quantità di risorse così elevata per offrire reti di nuova generazione, banda davvero larga e ultralarga, non i soliti 2 mega per secondo che vengono spacciati per banda larga in Italia e che poi nell'upload hanno una roba abbastanza ridicola, a cui continuiamo a tenere riservato la maggioranza delle povere famiglie italiane. Ma quante botte hanno preso e come si trovano, Patri? Ma innanzitutto dipende dai mercati, perché l'Europa è un aggregato molto diverso, quindi se parliamo dei mercati del nord Europa, la Scandinavia, le dinamiche sono molto diverse da quelle del sud Europa, dove il livello di competizione è diverso. Quindi se lei per botte intende come si sono comportati i titoli in borsa, per esempio, devo dire che negli ultimi 3-4 anni di grandi crisi finanziarie in cui il mercato è stato estremamente volatile, le società telecom comunque si sono comportate bene da un punto di vista dell'investimento, perché il total return cioè il ritorno che l'azionista avrebbe avuto investendo nel settore telecom negli ultimi 2-3 anni sarebbe stato superiore a quello che avrebbe avuto se avesse investito sul mercato, e questo è dovuto al fatto che i flussi di cassa che vengono generati da queste società sono intrinsecamente più stabili, e poiché negli ultimi 2-3 anni, che credo che sia il suo orizzonte temporale della domanda, il grande tema è stata la ciclicità del mercato, cioè quanto il ciclo economico peggiorava questo subito dopo il 2008 e quanto migliorava subito dopo il 2009, le società telecom hanno dimostrato di essere molto più stabili nel modo con cui loro gestiscono i loro flussi di cassa, e questo è dovuto al fatto che il business è sostanzialmente stabile e loro possono dimensionare l'ammontare degli investimenti che fanno nelle applicazioni che lei ha citato. In Italia abbiamo, se non sbaglio, proprio problemi di sottoperformance comparata rispetto ai titoli TLC, dovuto poi anche a un problema storico, insomma, il peso del debito che ereditava l'incumbent e l'effetto che tutto questo aveva sulla capacità di investimento, eccetera, eccetera. Sì, esattamente. Nel caso specifico di Telecom Italia, il titolo ha sottoperformato il settore telecom negli ultimi anni, dovuto fondamentalmente a due fattori. Innanzitutto le revisioni delle stime sono state sempre negative e sono state peggiori di quelle del resto del settore. E poi, come citava lei, Telecom Italia è intrinsecamente una società più levereggiata di altre società telecom nel settore, di conseguenza in un momento in cui il risk premium nel mercato aumenta, le società a leva chiaramente soffrono. In più lei ha citato l'aumento del costo del debito per il governo italiano. Questo chiaramente si riflette anche nel costo del debito per Telecom Italia, che però devo dire da un punto di vista di proprio liquidità è comunque diciamo a posto per almeno 2 anni, quindi non ci sono problemi di liquidità per Telecom Italia, è più un discorso di costo del debito. Una domanda che viene da il pubblico, naturalmente non addetti ai lavori, ma che immediatamente chiede rispetto a ciò su cui mette le mani un giorno quella metà di italiani che usa il computer. Iniziamo a usarlo un po' di più, lo vogliamo insegnare a casa anche a chi è anziano, per esempio? Tanto vi arriverà la tracciabilità fino a 5 euro tra poco, quindi bisognerà che anche le persone che sono poche avvezze a usare il computer sappiano che altrimenti arriva la gente delle tasse a insegnarvi come si usa il computer, almeno cerchiamo di impararlo prima che arrivi Befera, sempre santo naturalmente, perché sennò mi levano la trasmissione, Sant'Attilio, pensaci tu. Ma al di là di questo, la gente chiede, non capiamo una roba, ma perché noi dobbiamo continuare a pagare per i servizi di rete fissa, rete mobile, le telcos, quello che ci chiedono? Sì, è vero, le tariffe diminuiscono con la concorrenza, sono diminuite negli anni e così via, quando invece poi più del nostro tempo noi lo passiamo su grandi aggregatori tipo Facebook, Google, Yahoo, ma a quelli praticamente non paghiamo quasi niente, eppure il più delle cose che ci servono per famiglie, giovani, eccetera, eccetera, le facciamo con loro. Questa discrasia, che in realtà significa che chi genera un mucchio di traffico, satura un mucchio di banda, questa roba è fatta e passa su infrastrutture di operatori che ci hanno speso un bel po' di quattrini e giustamente ci devono avere un loro ritorno di quello che hanno speso. E invece la gente dice, no, ma quello è praticamente gratis. Allora, questa non è una contraddizione in termini destinati inevitabilmente con il peso dei social network a erodere margini e a mettere sempre un pochino nell'angolo le telco tradizionali? Assolutamente, ma questo è il motivo per cui le valutazioni dei titoli Telecom sono una frazione della valutazione degli over the top, perché sostanzialmente gli over the top non hanno investito nell'infrastruttura, l'infrastruttura è stata generata degli incumbent. Lei citava il caso italiano è un caso in cui chiaramente se non si dà uno stimolo agli operatori a investire, perché non ci sono dei ritorni che loro possono avere sull'investimento, loro non investono, e quindi queste applicazioni che la gente vorrebbe comunque continuare a utilizzare non sono possibili. Quindi comunque il problema è che bisogna dare uno stimolo agli investitori Telecom, che sono società private, di avere dei ritorni che giustificano questo investimento, e questo è allora, siccome lei parla di stimolo, prima di iniziare a sentire i due operatori che sono qua, se facciamo un quadro comparato di come i grandi paesi europei si sono attrezzati per l'agenda digitale europea a dare uno stimolo, può voler significare più cose, può voler significare pensare che il pubblico deve mettere in ballo lui una cornice regolatoria, può significare offrire una cornice societaria, può significare incentivi fiscali, può significare in Gran Bretagna l'agenda digitale, cioè i due operatori che hanno più del mercato in mano, che dicono noi entro il 2015 copriamo in un modo o nell'altro il 70%, sul resto del 30% ci sono interventi a quel punto pubblici, il pubblico comunque ha un piano di incentivi per le opere necessarie, i cavidotti eccetera eccetera, però quello è un modello. Noi in Italia qui siamo alla ricerca di un modello, perché diciamo ci sono due impostazioni di fondo che dipendono dal fatto che l'ex incumbent ha la rete in rame e dice io la voglio ottimizzare per tutta la vita, anche se è iperpagata da decenni e quindi quella non si tocca, ha fatto un intervento sulla sua rete Open Reach che non è proprio come quello ideale, secondo me è sempre quello britannico, però in qualche misura l'ha fatto, in una misura che è stata ritenuta opportuna dal nostro regolatore, ma poi alla fine come si fa la convergenza tra ciascun operatore, che deve essere libero di investire ciascuno sulla propria specializzazione di infrastruttura, davvero facendo la convergenza, ancora non abbiamo capito, perché è un anno e mezzo che la politica ci riserva tentativi vari e diversi. Ha fatto capire a un certo punto che pensava a una specie di società di cornice pubblica in cui c'era la cassa depositi e prestiti, tutti gli operatori e così via. Il contrasto in realtà tra rame, fibra e mobile è un contrasto che non è risolto, quindi se facciamo un paragone da questo punto di vista, secondo lei da dove abbiamo da imparare alla luce del fatto che qui finanza pubblica, denaro zero? Ah, tra l'altro bisogna vedere nel decreto sviluppo oggi, cari Topolini, se oltre la quota eccedente di 2.4 miliardi delle aste appena tenute, l'asta è arrivata quasi a 4 miliardi, lì 2.4 se li pappa il tesoro per la copertura del deficit, invece che investirli nel sostegno al discorso che stiamo facendo oggi. Bisogna vedere quanto della parte eccedente, cioè del 1.5 miliardi che resta, andrà al tesoro, che lo vuole al 90% da quello che so io, e quanto invece andrà a sostegno, incentivo del discorso che stiamo facendo oggi. Il ministro Romani, che concluderà i lavori domani, pensa di portarsene a casa una buona metà, diciamo 780-790 milioni. Questi soldi iniziano ad essere incassati a fine 2012 in 5 tranche annuali, quindi ci sarebbero 160 milioni che, provento di queste aste, dovrebbero andare esattamente al tipo di risposta che chiediamo a Patria di darci. Che farne? Sicuramente non dagli investitori, cioè questi soldi non arrivano dagli investitori, a condizione che questi soldi vengano in qualche modo garantiti, cioè ci sono dei ritorni garantiti, nel senso che, se lei si riferisce alla fibra, l'investimento in fibra in Europa è stato fatto dove c'era una concorrenza molto aggressiva da parte dei cable operator. Dove non c'era una concorrenza dei cable operator, gli incumbent non hanno investito in fibra. Quindi il concetto è che in Italia, non essendoci una concorrenza forte del cable operator, perché non c'è, automaticamente gli investitori, l'investimento delle società telecom in un progetto in fibra che costerebbe molti miliardi di euro non c'è, a meno che non venga garantito agli operatori in un modo o in un altro un ritorno garantito, o una forma di protezione, che è quello che è successo per esempio in Germania, dove Deutsche Telekom ha avuto una forma di protezione, una window, diciamo, di... Altro che protezione, è un termine perifrastico molto gentile, se posso altrimenti dire. Loro non l'avrebbero fatto. Poi secondo me bisogna fare anche un discorso più profondo, che comunque il tipo anche, diciamo, geografico del territorio su cui operi. Per esempio, ci sono delle società come in Portogallo, Portugal Telecom, che in effetti, coprendo due città, copri la stragrande maggioranza della popolazione. In Inghilterra copri 5 città, copri la stragrande maggioranza della popolazione, o comunque quella che ti può pagare. In Italia, se vuoi fare un progetto in fibra con la densità che abbiamo in questo paese, in termini di numero di città eccetera, sarebbe un investimento mostruoso. Quindi sostanzialmente nessuno lo farà mai, perché non c'è la concorrenza che ti spinge in chiave difensiva a fare un investimento in fibra, e in più, se lo devi fare, ti costa tantissimo. Ora sentiamo immediatamente un ascoltatore e poi iniziamo a sentire i due operatori che sono ospiti qui con noi. Luigi da Roma, prego Luigi. Sì, buongiorno. Io sono stato amministratore delegato di una ex multinazionale, non faccio il nome ovviamente, però la materia la conosco bene. Volevo dire soltanto... No, chiarisca un po', lei è stato ex amministratore delegato o della ex multinazionale, nel senso che è esplosa? Perché no, non si è capito. Sono stato ex amministratore delegato di una multinazionale che c'è ancora. Sì. All'altro saluto Corrado Sciolla, Luigi, se si ricorda, si associa il nome. Io volevo dire due cose, no? La prima è quella che riguarda... Ricambio i saluti, Luigi. Ciao Corrado. La prima è quella che riguarda gli Stati Uniti e Steve Jobs. Tantissimi anni fa un presidente degli Stati Uniti che si chiama Bill Clinton partì con un progetto che si chiamava le autostrade per l'informatica, e fu una grande spinta per il paese a innovare e a far nascere realtà che hanno portato da allora fino ad oggi un incremento del PIL di quel paese mediamente di 1,5 punti, 2 punti percentuali l'anno, che se l'avessimo avuto noi non avremmo avuto il debito che abbiamo. Quindi l'incapacità di vedere dei nostri politici, anche in questo caso non solo sul debito pubblico, è stata dannosa. L'altra cosa importante, che voi l'avete già detta, è che purtroppo Telecom è stato un incumbent, c'era solo lui, e avendo il monopolio, il dominio totale di tutti quanti gli utenti, non aveva nessun interesse. Oggi la spesa, forse lì il signore che ha parlato prima non lo vuole dire, ma in Italia per fare la banda larga vera ci vogliono almeno 15-20 miliardi di euro. Sì, e purtroppo ancora una volta... Perché non lo vuole dire? Siamo qua proprio per dirlo, si figuri. Allora... ci vogliono 20 miliardi di euro, senza problemi. E devo dire che qualche tempo fa l'allora vice ministro sottosegretario Romani fece fare uno studio all'ingegner Caio, altra persona abbastanza nota, disse alcune cose interessanti, ma tutte quelle cose interessanti le avevano già dette operatori e persone come Sciolla, ma anche come H3G, come Wind. Sciolla tra l'altro è stato anche direttore generale di Wind, quindi il mestiere lo conosce bene. Però ancora una volta noi in Italia paghiamo, e finisco, l'irresponsabilità dei politici di capire e di fare progetti in maniera tale che sulla base di un progetto si realizzi un qualcosa. Ho finito. Grazie Luigi. Io ricordo che la parte poi finale del rapporto Caio riguardava appunto, oramai sono passati un po' di annetti, riguardava appunto l'idea se fosse remunerativa da sola un'ipotesi in cui tutti i diversi player senza obblighi stabiliti dallo Stato. Lo Stato non deve tornare a fare il dirigista e a decidere su quale infrastruttura gli operatori devono mettere i soldi, potesse però essere compatibile con l'idea di avere un ritorno per ciascuno proporzionato a ciò che può fare in un'architettura di questo genere. E lì si divide il fronte. C'è chi pensa: noi in realtà abbiamo le risorse nel sistema come operatori privati per poterlo fare, per poterci guadagnare. E c'è chi dice invece no, questo è chiaro che Telecom Italia, tra l'altro preghiera a tutti, usiamo meno termini specifici in gergo eccetera eccetera, perché chi a casa non riesce poi a capire, l'incumbent non è detto che sappiano chi sia eccetera eccetera, quindi chiamiamolo per nome, si chiama Telecom Italia, cioè, ecco. Allora in quel caso ci si divide in due, perché dice no, noi in realtà abbiamo bisogno che lo Stato metta mano al portafoglio. Allora, la esperienza di Fastweb, che pure, voglio dire, ha avuto intensi periodi muscolari di fronte al regolatore rispetto a Telecom Italia, gli anni in cui bisognava mettere mano al problema dell'unbundling, alla replicabilità delle tariffe wholesale, anche queste sono cose un po', mi scuso, tecniche per chi ci ascolta, ma per fare capire che sappiamo di cosa stiamo parlando. L'Europa continua a dirci: guardate che anche le vostre tariffe di terminazione, cioè la parte di tariffa che remunera l'ultimo tratto della vostra telefonata, diciamo così, o della vostra richiesta dati, sono un grave problema perché l'Italia non è allineata. Non è che tutto questo ha a che fare anche poi con le risorse che gli operatori si trovano a disposizione per investire più o meno liberamente in vista di un ritorno al di là di quello che ci deve mettere lo Stato, cioè molto poco? Che dice Calcagno? Assolutamente, l'NGN, le reti di nuova generazione per dire all'italiana, è un argomento molto complesso. Innanzitutto vorrei sgombrare il campo da un dubbio che potrebbe venire ai nostri ascoltatori, che è quello di dire semplicemente l'NGN se ne parla solo ma non si attua perché mancano le risorse. In realtà, se uno guarda quanto hanno prodotto il mercato mobile fisso nel 2010, hanno prodotto più di 11 miliardi di euro di flussi di cassa industriale. Quindi possiamo dire che le risorse ci sono, senza bisogno di interventi da parte dello Stato. Però è vero che comunque questo NGN, o rete di nuova generazione, non sta decollando per via di due asimmetrie importanti nel mercato italiano, e sono due asimmetrie regolamentari. La prima: se io divido questi flussi di cassa, questi 11 miliardi, in quanto proviene dal mobile e quanto proviene dal fisso, scopro che i mobili percepiscono 7 miliardi, cioè quasi il 70% dell'intero ammontare, mentre il fisso soltanto 4 miliardi. Uno potrebbe dire, forse è perché negli ultimi 10 anni gli operatori mobili hanno investito molto di più e quindi è giusto che percepiscano di più. Se io guardo negli ultimi 10 anni, in realtà gli operatori mobili nel loro complesso, mettendoci dentro anche le costosissime licenze 3G di qualche anno fa, hanno investito 35 miliardi di euro. Se vedo invece quanto fatto dal fisso negli ultimi 10 anni, noi come operatori alternativi insieme a Telecom Italia abbiamo investito 36 miliardi di euro. Quindi non c'è assolutamente una simmetria di investimenti che possa giustificare una simmetria di flussi di cassa. In realtà questa simmetria è dovuta a un tema regolamentare, che sono appunto la simmetria nella terminazione, come tu hai citato prima, dei mobili. Cioè oggi i mobili sono molto più remunerati degli operatori fissi quando un qualsiasi cliente termina una chiamata nella loro rete. In particolare i mobili percepiscono dei prezzi 10 volte superiori a quelli dei fissi. Chiaramente in una situazione del genere un operatore mobile difficilmente è incentivato ad investire nel fisso, perché si trova in una situazione molto interessante di rendita dal suo operatore. La domanda banale che mi pongo io: se io ho una tariffa di terminazione 10 volte superiore al mio collega competitor sul fisso, alla fine non sono anche portato da questo prezzo così tanto più remunerante a fargli concorrenza sul fisso e dire: io faccio una bella offerta ai tuoi clienti fissi al di sotto dei costi che devo pagare poi per passare sulle reti di fissi se sono solo mobile, ipotizziamo che sia così, poi i gruppi sono integrati, perché tanto mi porto a casa tuoi clienti a un costo più basso rispetto a quello che gli prendi tu, sì è vero che ci rimetto, ma tanto poi con la parte mobile ci prendo tanto in più che ci guadagno comunque. Esattamente quello che sta succedendo, perché loro vedono il signor Giannino, per loro è sia un cliente mobile è anche un cliente fisso, quindi per loro è molto più importante importante salvaguardare il flusso di cassa che prendono dal cliente Giannino Mobile, e si permettono anche, appunto, come dici tu, di dare delle offerte anche eventualmente sotto costo, perché vedono nel complesso che comunque la parte mobile è assolutamente redditizia per loro. E questa è una simmetria che nel mondo del fisso sta mettendo in seria difficoltà gli operatori invece che sono naturalmente solo fissi. Però c'è anche una seconda simmetria importante. All'interno del fisso, se io guardo com'è scomposto questi 4 miliardi di euro tra Telecom Italia e gli altri operatori alternativi, in realtà Telecom Italia produce più dei 4 miliardi, perché gli operatori alternativi sono in realtà in perdita. Non sto parlando solo di Fastweb, ma sto parlando anche di BT, della componente fissa di Vodafone e Wind, di Tiscali, di tutti gli altri. Di nuovo, potremmo chiederci, ma questo è dovuto a un tema di asimmetria di investimenti? E cioè Telecom Italia, in quanto ex monopolista, investe molto di più ed è giusto che prenda di più? In realtà non è così, perché se guardo negli ultimi 10 anni, Telecom Italia ha sì investito più di 20 miliardi, però gli operatori alternativi hanno fatto la loro parte con più di 10 miliardi, quindi è vero, c'è una simmetria di investimenti, ma non tale da giustificare la differenza. Bene, quindi come vedete ora dobbiamo andare in pubblicità, ma insomma il regolatore che con le sue tariffe alla fine dà dei bei muri, per cui il mercato, che pure ha risorse da non chiedere al contribuente Giannino, per fare quello che vi dicono invece, che se non ve li rubano il nome dell'agente delle tasse, questi signori non sanno fare il loro mestiere. Noi qua non la pensiamo così. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qui tornati da uno studio attrezzato un pochino, diciamo, di risulta. Siamo come polli in una stia, tutti stretti e accaldati, ma speriamo che comunque l'effetto delle nostre voci non vi risulti sgradevole, solo come la mia voce, molti dicono. C'è un ascoltatore che prima mi mandava tutte all'inizio, ogni mattina, una cosa che diceva ciao Daffy, perché dice che ho la voce come Daffy Duck, un po' un paperotto. Invece grazie al cielo i manager devono fare di quello che si chiama il delivery, la capacità di entusiasmare i loro dipendenti schiavi, una delle chiavi del loro successo, hanno una voce, come avete sentito, molto più apprezzabile e flautata della mia. Un paio di telefonate e poi andiamo subito da Sciolla BT. Roberto, la provincia di Bolzano, rapido. Sì, salve. Allora, io lavoro per una compagnia telefonica di questa regione, e volevo dire che il nostro livello di, cioè la sostenibilità di un investimento di una rete di accesso propria, e non parlo del WSI proprio, parlo proprio di una rete di accesso che appartenga alla società, richiede per un tipo di connettività di tipo fibra, per esempio, richiede assolutamente una concertazione con i comuni su cui si vuole operare, perché questa è una condizione essenziale. E questo noi in Alto Adige siamo riusciti a farlo, grazie a parte le condizioni politiche che consentono, diciamo, una certa omogeneità di visione. Che non mi Roberto, anche grazie, non secondariamente, oltre all'omogeneità politica, al fatto che avete dotazioni di finanza pubblica sconosciute al resto d'Italia. Questo è meglio che ce lo ricordiamo, perché io ricordo sempre a chi dice c'è il modello Trento, sì certo, il resto d'Italia i soldi che avete voi non li avrà mai, non ce lo dimentichiamo però. C'è anche da dire che noi riusciamo a giustificare un certo livello di spesa grazie anche a un mercato che è indubbiamente, lo dico senza falsa modestia, noi siamo più avanti anche come esigenza, anche il nostro mercato di riferimento è più esigente, certo, rispetto al livello del resto dell'Italia. E quindi comunque lei dice bisogna passare per forza, quantomeno per le autonomie. Devo dire che rispetto al ritardo e al fatto che non si sia concertata né una cornice regolatoria, né di incentivi, né modificato il regime di tariffe, che avete visto che cosa producono, né tantomeno è decollato alcun vero modello intorno a ciò a cui sta lavorando il ministro Romani, perché mancava comunque anche la minima certezza di denaro, e quindi se pochissimo bisognerà destinarlo a coprire quello che si chiama il digital divide, se un po' di più si può fare altro, se un po' di più si può fare altro. Io sono dell'idea che con buone decisioni di regolatori non c'è bisogno di denaro pubblico, certo c'è bisogno poi dell'ottimizzazione delle condizioni per agevolare al meglio la convergenza delle tecnologie fisse e mobili, ma questo è un altro paio di manico. Voi ci avete messo denaro, ma ce l'avete però. L'Italia, secondo me, è meglio che ragioniamo che bisogna abbattere la spesa pubblica. Claudio da Torino, prego, rapido. Claudio. Pronto? Eccoci. Buongiorno, dottor Giannino, buongiorno ai suoi ospiti. Prego, rapidissimo, Claudio, ti sento attardato. Volevo dare uno spunto di riflessione. Sì. Io lavoro in una società di consulenza che si occupa appunto di fornire consulenza e soluzioni alla società di telecomunicazione. Mi è capitato di vedere in questi giorni una richiesta, un bando di un paese medio orientale per una fornitura di una consulenza per un piano di fattibilità. Per una cosa molto semplice, gli operatori insieme all'authority stanno studiando come concentrare l'infrastruttura di rete mobile in un'unica infrastruttura per diminuire l'impatto ambientale, diminuire gli investimenti e condividere l'infrastruttura un po' come nelle ferrovie, c'è un unico binario. Di che binario, paese si tratta, se si può dire? Credo di sì. Un paese del, sono dati riservati, un paese del Medio Oriente. Questo accade anche in Nord Europa, per esempio. Sì. Credo che sia uno spunto di riflessione il fatto appunto che l'authority e quattro principali operatori di quel paese si preoccupino di ottimizzare l'infrastruttura, creare torri e selve di antenne, questo specialmente per le nuove tecnologie di nuova generazione. È probabile anche, se mi permetti, che in paesi, diciamo, a sviluppi di mercato più recenti, chiamiamoli così, e con governi, non voglio dire più stabili, ma che hanno, diciamo, degli strumenti di consenso un po' diversi da quelli delle democrazie occidentali in media, la convergenza abbia degli strumenti un po' diversi dalle logiche persuasive di moral suasion che in un mercato democratico sono al massimo quello che si può chiedere, secondo me. Però questo dipende da che paese è, naturalmente. Allora, Sciolla, abbiamo sentito, cioè subito su questo punto, c'è una democrazia dove questo avviene molto molto frequentemente, che è l'India, senza nessun tipo di costrizione, gli operatori si seggono attorno a un tavolo e anzi abbiamo il più grosso operatore indiano che ha una logica molto di spacchettare la rete, esatto, loro benissimo. Fanno outsourcing di tutto, persino i gruppi elettrogeni, tu vai a vederti un modello Gandhi, esatto. Il modello Gandhi, noi invece il modello Gandhi non lo pratichiamo. Sciolla, abbiamo visto quello che si può fare se si cambiano alcune decisioni del regolatore, i limiti che ci derivano dalla storia del grande operatore italiano, perché sono limiti che riguardano le sue performance, la sua capacità di investimento e come è giusto, condizionato, ha tentato di condizionare il più possibile il mercato. Per un operatore che ha la vostra storia nel nostro paese, questo che cosa significa rispetto alla necessità di battersi per reti di nuova generazione che a quel punto consentano un'offerta di servizi tale da aumentare la remuneratività, mentre la crisi è quella che è, le condizioni dell'Italia sono quelle che sono e quindi solo con una visione tradizionale bisogna combattere per rimanere fermi altrimenti. Ma guardi, io faccio parte di una multinazionale che in Italia ha investito parecchio. Noi abbiamo investito negli anni oltre 1,5 miliardi di euro in questo paese, abbiamo acquisito aziende, prima Albacom, poi Net, eccetera, e devo dire che abbiamo avuto una crescita costante fino al 2007-2008. Devo dire che secondo me lo scenario competitivo è significativamente peggiorato, secondo me, negli ultimi anni. E allora vedo sicuramente in linea... Questo per un inciso solo, noi ogni anno, come istituto Bruno Leoni, pervicaci, liberisti, quattro mosche bianche che siamo, per tentare, cari Topolini in ascolto, di farvi sempre capire che c'è di meglio di chi dice stato, ogni anno pubblichiamo l'indice delle liberalizzazioni, l'abbiamo appena fatto l'edizione 2011, appena aggiornata, 16 storie del mercato comparati al miglior paese benchmark in ogni settore, secondo noi individuato, con dei criteri che sono quelli della comunità scientifica e economica. Nel settore delle TLC, quest'anno, rispetto alla media nazionale di apertura dei 16 settori, che di 47 ferma da 5 anni, quello delle TLC scende un punto e sta a 42, quindi la pensiamo come lei da questo punto di vista. E chiaramente, essendo una multinazionale che opera in 170 paesi nel mondo, quello che cerchiamo di fare noi è attrarre del denaro della nostra multinazionale in questo paese, e chiaramente più il paese ha un livello di competitività e di attrattività per gli investimenti alto, più è facile attrarli. Meno è il caso e meno è facile attrarli. Cioè noi competiamo con investire dei soldi qui o investire dei soldi in Cina, in Corea, eccetera. Quindi chiaramente la situazione non è semplice in questo momento. Devo dire che volevo fare un commento su quello che succede in Inghilterra. Cioè in Inghilterra ci sono delle regole abbastanza chiare. Come ha detto lei, c'è un piano per coprire il 70%. 70% della popolazione entro il 2015. Si parlava di 100 megabit alle famiglie. Ieri British Telecom in Inghilterra ha annunciato un piano di rollout di 300 megabit sulle famiglie e il ministro delle comunicazioni ha detto: questo ci aiuterà a rendere il nostro business più competitivo rispetto agli altri mercati mondiali. Ecco, queste sono cose che qui purtroppo in questo momento non stiamo facendo e stiamo ritardando. E quando abbiamo detto il 30% è denaro pubblico che va a coprire le zone di market failure, cioè dove non si riesce ad avere dei soldi, avere un ritorno sull'investimento sufficiente per investire, è vero che vengono dati dei soldi pubblici, ma i soldi pubblici vengono dati attraverso aste e poi sono operatori privati che prendono i soldi pubblici e li investono in modo tale da avere un ritorno adeguato. Noi su questo abbiamo un punto molto forte, cioè società gestite dallo Stato per fare reti di telecomunicazioni furono in passato Telecom Italia, creò questo monopolio. Telecom Italia ancora oggi fa leva su questo monopolio. Ecco, non vorremmo ripetere cose di questo tipo. Le chiedo di commentare al volo 2 o 3 che scelgo tra centinaia di sms che sono arrivati. Primo sms: mezza Italia è scoperta perché si sa che se fai l'armadio quello diciamo sotto casa dove arrivano le linee tutti, se il giorno dopo ci arriva la concorrenza, questa situazione certo non spinge chi deve aprire l'armadio a farlo davvero che funzioni. Primo. È il linguaggio un po' approssimativo, ma spiega il problema. Secondo, la DSL di tutti è sottodimensionata, in quanto si paga 100 ciò che non vale neanche 50. Io per esempio pago un contratto che mi dicono di 8 mega, ma non ricevo mai più di 3,5, quindi lavoro male e vengo derubato in realtà del 50% in bolletta di quello che c'è scritto nel contratto. Un altro: ok banda larga per i dati, ma le elevate tariffe telefoniche e roaming nell'era di Skype gratis non sono assurde? Per quale ragione dovremmo dare ancora più soldi ai concorrenti di Telecom? Questo non lo dice, ma insomma più o meno. Dopodiché ancora gente che dice DSL non va bene. Intanto questo, Sciolo, che dici? Ma scusi, allora innanzitutto parto dalla prima sulla concorrenza. La concorrenza secondo me in qualsiasi mercato, e compreso il mercato delle telecomunicazioni, ha sempre portato sviluppo e non degenerazione del mercato. Devo dire che i mercati sono stati molto aggressivi sulle telecomunicazioni negli ultimi anni. Noi come ASTE, l'Associazione delle Telecomunicazioni in Italia, ci siamo dati un sistema negli ultimi 6 mesi di autoregolamentazioni in modo tale per cui alcune pratiche di clienti che passano da una parte all'altra vengano regolati. C'è oggi un database in cui la persona, se non vuole essere chiamato dall'operatore di telecomunicazione, si può iscrivere a questo database e non viene chiamato e non viene disturbato. Quindi diciamo che anche noi abbiamo visto che il mercato è regolato in maniera migliore, secondo me. E l'altra cosa invece sulle tariffe di terminazione, cioè qui l'anomalia è molto più, come diceva il dottor Calcagno prima, sui mobili rispetto ai fissi. Questo gap che oggi è di 5 volte è un gap che va avanti da 19 anni, cioè da quando Telecom Italia è entrato sul mercato. Diciamo che non sarebbe è un gap interessante che è qui fare anche un conticino per me che sono per l'apertura dei mercati, di quanti di questi pacchi di miliardi dovuti a questo tipo di tariffa sono andati poi totalmente all'estero, non solo non reinvestiti in Italia, ma proprio totalmente all'estero. Una bella maniera anche di concepirlo. Io sono contrario alle bandierine nazionali, però insomma anche questo, no? è un tema, per così dire. Allora, abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale e poi ricominciamo con Calcaglio che risponde a questa domanda. Caro Giardino, sono da 6 anni che lavoro come commercial business, è un libero professionista, commercial business, quindi non è un dipendente, per una grande società telefonica, non fa il nome, ma si capisce, quindi a contatto giornaliero con le imprese. Rilevo, tranne un lieve decremento dei costi, nessuna miglioria a livello di efficienza dei servizi. Un esempio, negli Stati Uniti in 2 giorni vengono installati resi operativi i servizi di rete fissa. In Italia va molto molto bene se ci impieghiamo 20 giorni. Eccoci qui per questa terza parte di questa trasmissione, prima di un ciclo di 2 dedicato ai problemi del mondo delle telecomunicazioni e dell'ICT in Italia, nel tentativo di capire come i diversi attori del mercato possano offrirvi il più rapidamente possibile servizi e banda larga, ciascuno mettendo al meglio la propria scelta per tipo di infrastruttura, tipo di servizi da offrirmi, ma avete capito, c'è una cornice regolatoria che va in una certa direzione, ci sono modelli diversi territoriali, perché nella arretratezza di una scelta precisa nazionale diverse parti d'Italia hanno messo in gioco diversi modelli di intervento per agevolare la convergenza sulle infrastrutture con livelli diversi di dotazione di finanza pubblica. In tutto questo però poi alla fine chi si occupa della cosa basilare, per quanto pago il servizio, fa una domanda, Calcagno, come quella là che abbiamo. A voi, quando un cliente falso dice ma voi non siete meglio degli altri come qualità dei servizi, che cosa gli dovete dire? Io in realtà non sarei così pessimista. Se prendo ad esempio la fibra, che è assolutamente il fiore all'occhiello di Fastweb, noi impieghiamo anche meno di una settimana a connettere un nuovo cliente, quindi ripeto, non generalizzerei troppo e non commenterei ulteriormente su questo tema. È vero però importante che l'innovazione è fondamentale per la qualità dei servizi e per aumentarla, però l'innovazione necessita investimenti. Per un operatore come Fastweb, che negli ultimi 10 anni è stato all'avanguardia per l'innovazione, è partito con la fibra, poi la televisione su protocollo IP, siamo stati anche i pionieri ad aver iniziato l'unbundling, ad utilizzare l'unbundling, è fondamentale poter però utilizzare tutte le risorse a disposizione. Parlando appunto di un'altra asimmetria regolamentare, dal 2008 le tariffe di unbundling, cioè quelle che gli operatori alternativi devono corrispondere a Telecom Italia per l'utilizzo della rete in rame, sono aumentate e fino al 2012 aumenteranno del 20%. Questo ha un impatto devastante sui conti degli operatori alternativi, non solo Fastweb chiaramente, ma su tutti, e che può essere stimato in circa 300 milioni se considero il periodo dal 2008 al 2012, e se lo estendo al 2015 saranno 700 milioni. Ora potete capire che gli operatori alternativi, in una fase, come abbiamo detto prima, dove ancora bruciano cassa, avere diciamo questo costo aggiuntivo rappresenta un limite importante all'innovazione, e questo è assolutamente un tema che il regolatore può risolvere. Ma senti, io volevo però invece riprendere il punto della performance della rete, sì, eccetera. Allora, io credo che il discorso, siccome molte volte lo si butta su un discorso populistico, è molto legato a che percentuale di popolazione siamo in grado di coprire, eccetera. Sì. Io sposterei il problema da un altro punto di vista, cioè il problema va affrontato con una rete di nuova generazione che aiuta le imprese a guadagnare produttività, che è quella che abbiamo perso negli ultimi 10 anni. E le performance di una rete di questo genere sono diverse, cioè le performance devono essere delle performance medie garantite, della capacità di intervento quando ci sono dei guasti in 4 ore anziché in 2 giorni lavorativi, certo, il fatto di portare la fibra dedicata alle imprese, magari in doppia linea, in modo tale che ci sia una ridondanza. Ecco, questo secondo me è dove sposterei la discussione in questo paese. E difatti noi come Astel, tra le varie cose che abbiamo proposto dell'utilizzo degli 800 milioni, ammesso che questi 800 milioni vengano resi disponibili, è che il 50% vengano dedicati a collegare in fibra i distretti industriali. E naturalmente alla radio di Confindustria questa non sembra una cattiva idea, ma io non parlo a nome della radio di Confindustria, dico solo, do 15 secondi per una risposta che, se riesce a darcela, mi illumina, a Patri. Perché i paesi in cui il regolatore non interviene più su tariffe, cose ex ante? In Gran Bretagna il regolatore non lo fa più. Alla fine continua a essere il paese di riferimento dove, dal punto di vista della concorrenza, gli investimenti, cioè le cose funzionano meglio, mentre noi, in cui il regolatore fa un mucchio di interventi ex ante, magari li tiene rigidi negli anni come abbiamo visto, eccetera, le cose funzionano peggio? Non è vero, perché il Giappone ha un regolatore molto... Lo sapevo che mi spiazzava, il Giappone, ragazzi. Allora, il Giappone però è, diciamo, un bel modello da seguire, 15 anni di crescita flat. Il nostro paese più o meno è l'equivalente da questo punto di vista. Cari ascoltatori, noi ci ascoltiamo, ci sentiamo domani. Attenti, attenti a che cosa in Parlamento si dibatte oggi. I provvedimenti per lo sviluppo, il sostegno alla crescita, reti di nuova generazione. Ma no, galera ai giornalisti e udienze filtro per i politici. Pagate le tasse, questo è quello che ricevete in cambio. Il signor Giannino vi saluta, è un dissidente da questo punto di vista. Io sono per il no alle intercettazioni, ma le udienze filtro e il carcere, rispetto a chi non mette piede in un'aula di tribunale, mi fanno abbastanza ridere. Su questo il mio amico Giuliano Ferrara, secondo me, sta prendendo un grande sfrognone. A domani.